Il governo in particolare sta andando avanti nella sua opera di modifica della normativa italiana che regola da più di 30 anni l'export militare, e lo sta facendo ovviamente in un'ottica che secondo noi diminuisce la trasparenza, diminuisce il controllo e quindi in generale peggiora la legge. È già da alcuni anni che le pressioni dell'industria militare vorrebbero portare verso appunto una situazione di minor controllo. L'anno scorso, ad agosto, il governo aveva presentato un disegno di legge, è stato già discusso e votato al Senato, e proprio lì si è reso evidente come l'intenzione non sia quella di andare a migliorare, aggiornare una legge che ha anche più di 30 anni, quindi giustamente può avere delle cose da sistemare, ma in realtà appunto ci sia la volontà di favorire l'industria militare. Perché? Perché noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti e di proposte nel concreto che erano state addirittura recepite dalla Presidente Craxi della maggioranza, quindi della Commissione Esteri e Difesa del Senato, ma che poi sono state completamente rigettate e cancellate dal governo, che non solo ha continuato nell'ottica e nel percorso che aveva già evidenziato con la proposta del testo di base del DDL, ma addirittura peggiorato. Ad esempio viene eliminata la possibilità per chi si occupa dell'export di armi di avere punti di riferimento e confronti con le organizzazioni della società civile che si occupano dei diritti umani, viene cancellata integralmente la relazione al Parlamento nella parte riguardante le banche che sono connesse al commercio di armi, non viene per nulla citato il Trattato internazionale sul commercio di armi, che in realtà è la normativa di riferimento, perché è appunto un trattato internazionale. Tutto questo perché si tratterebbe di elementi che potrebbero tenere sotto controllo maggiormente, ma dare maggiore trasparenza alla vendita di armi all'estero. Questo purtroppo ai signori delle armi non piace. A proposito di, diciamo, degli obblighi anche contenuti in questa legge, insomma sono quelli che permettono a voi anche di tracciare dove vengono poi esportate le armi. In passato avete sollevato il tema di armi esportate in Yemen nel corso di appunto una guerra, e proprio attorno a queste zone, in particolare il Mar Rosso, il Parlamento sta approvando una missione militare. Voi che idea vi siete fatti? Le situazioni avvengono per stratificazioni. È molto, così come si sta utilizzando l'idea della difesa che dobbiamo avere dopo la guerra in Ucraina per giustificare qualsiasi cosa dal lato militare, sia l'aumento delle spese, sia anche addirittura appunto questo cambio della legge sull'export, che ovviamente non c'entra niente con la difesa dell'Italia, soltanto il suo punto di export. Anche nel caso del Mar Rosso mi sembra che si stia cercando di giustificare in maniera molto spuria, molto strumentale, una decisione che invece sottolinea solo un aspetto, cioè che quando ci sono le povere persone a morire, come è stato il caso del Yemen, che ha avuto una guerra iniziata nel 2015, che ha fatto più di 300.000 morti, è stata sottolineata come la catastrofe umanitaria peggiore del decennio. Adesso però abbiamo Gaza, che forse purtroppo l'ha superata, e questa cosa è stata ignorata, anzi appunto, come giustamente ricordato, venivano dati agli sauditi e agli emiratini le armi, le bombe con cui questo martellamento della popolazione civile veniva fatto. Un martellamento che non ha ovviamente eliminato gli Houthi, diciamolo chiaro, non sono certamente degli stinchi di santo, anzi sono uno dei gruppi ribelli, diciamo, armati tra i peggiori che ci siano, e hanno instaurato nella parte di Yemen che controllano un controllo molto autoritario e senza rispettare i diritti, ma ovviamente il continuare a bombardare non ha migliorato la situazione, e oggi ci troviamo in un contesto appunto di peggioramento che però viene sfruttato per dispiegare anche delle nostre navi. Noi abbiamo sottolineato che quello non è sicuramente il modo per abbassare le tensioni, diminuire le problematiche nel Mar Rosso, che è anche un'area ovviamente vicina alla situazione che sta vivendo in Palestina e Israele, e appunto è un po' stridente, no? Il constatare che quando ci sono le persone che muoiono non ci si muove, anzi si aiuta chi le fa morire, e quando invece sono i commerci che vengono messi in crisi o vengono minacciati, allora subito si mandano le armi, le navi o comunque il dispiegamento militare. Direi che è ancora una volta una scelta sbagliata, come tante, troppe sono state fatte negli ultimi anni, in particolare per il Medio Oriente, ma sembra che la nostra politica, e non solo la nostra politica, non riesca a imparare dagli errori del passato.